Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nel libro di testo Principles of Laser, su cui studenti universitari di mezzo mondo studiano appunto le basi fisiche e tecnologiche del laser, l'autore, il professor Orazio Svelto, scrisse che se il XX secolo era il secolo, insomma, dell'elettricità e dell'elettronica, il XXI sarebbe stato quello della luce, quello dell'ottica. Intanto siamo nell'anno internazionale della luce e sta di fatto che comunque sta andando proprio così, con il laser che viene utilizzato in un numero sempre crescente di applicazioni. Di recente, per esempio, abbiamo visto come un fascio laser molto preciso sia stato utilizzato per realizzare la prima comunicazione quantistica satellitare, un nuovo modo per trasmettere dati virtualmente impossibile da hackerare. Ma i settori in cui si prevede che il laser avrà un ruolo sempre più importante in futuro sono numerosi. Ne parliamo con Paolo Salvadeo, che è esperto di laser ed è anche amministratore delegato di Quanta System, azienda che è nata nell'85 come spin off del CISE, che è uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo nel campo dell'ottica e dei laser. Buonasera Salvadeo. Buonasera. Allora, intanto c'è un settore medico, per esempio, che è uno di quelli in cui c'è una forte diffusione dell'uso del laser. Sì, una delle più grandi diffusioni da parte del laser è nel segmento della chirurgia, sfruttando quelle che sono le caratteristiche intrinseche della luce, ovvero la sua selettività, la possibilità di interagire con un bersaglio, con un target in modo molto selettivo e provocando non sanguinamento. Quindi si può distruggere qualcosa, per esempio? Uno degli obiettivi è il tumore. Un altro settore nel quale invece il laser, diciamo, è molto di recentissima applicazione è quello del restauro artistico. Il settore del restauro artistico è una delle principali, dei principali driver per l'utilizzo di questi laser, e sia nel segmento della diagnostica che nel segmento anche qui della terapia, se vogliamo fare un fil rouge con la parte medica, chirurgica. Naturalmente si può, prima di trattare un'opera d'arte, individuare con un laser quelli che sono dei parametri caratteristici dell'artista, i materiali che l'artista ha scelto attraverso appunto della spettroscopia a Raman o della spettroscopia al plasma, si possono individuare degli elementi che stanno all'interno di un determinato colore in modo non distruttivo, si possono individuare quelli che sono stati i pigmenti e i leganti, quindi tutta la parte molecolare. Okay. Una volta che io faccio una mia radiografia, se mi si passa al termine, dell'opera, a questo punto il laser può essere utilizzato per il restauro conservativo. Conservativo significa eliminare degli strati del tempo lasciando intatte quelle che sono le patine originarie, le superfici di valore. Un altro settore, questo invece guardando un po' già al futuro, in cui vedremo però diffondersi il laser, è quello della sicurezza, non inteso usato come arma, ma usato per altri scopi. Ci può spiegare? Il laser è molto importante in questo campo, poiché lo scenario geopolitico lo richiede. È quello che è, sì, sappiamo. Molti stati si stanno muovendo e mettendo bandi per arrivare a fare studi di fattibilità su sistemi che possano in modo remoto individuare per esempio degli esplosivi. Okay. Oggi l'unico modo per individuare gli esplosivi è o attraverso il cosiddetto visual management: arriva il poliziotto, apre il baule della perquisizione, macchina, insomma, dentro c'è una perquisizione, oppure il cane, che appunto il cane molecolare che sniffa gli esplosivi. In realtà con il laser, attraverso delle spettroscopie Raman, quindi attraverso uno scanner ottico ad alta velocità, ad alta risoluzione, può andare ad individuare con delle densità residue su un maniglione posteriore piuttosto che sulle maniglie della macchina, appunto della portiera, degli esplosivi. Tracce di esplosivo, anche piccole tracce. Piccolissime tracce, si parla di 100 fino a 1000 microgrammi al centimetro quadrato di TNT piuttosto che di nitrato di ammonio oppure di pentrite. Sì, o di roba che non può avere altri utilizzi se non quella di saltare per aria. Molto pesante. E qual è però il vantaggio di usare il laser? Il vantaggio del laser è quello di poter operare a distanza, quindi in modo remoto, senza l'utilizzo per esempio di cani, e di essere molto veloci su un numero molto elevato di mezzi o di vetture. Ecco, la differenza è che con un cane bisogna fare a campione, cioè si ferma il sospetto, si fanno usare la macchina, ma intanto si fanno passare le altre, mentre qui potrebbe fare su ogni automobile che passa da un valico o da un... Quindi non c'è bisogno più di un campionamento che è limitativo sia per il visual management del poliziotto sia la parte del cane, ecco. Grazie Paolo Salvadeo. Grazie a voi, buona serata. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.